posto è una palestra per darsi un appuntamento. Ma non voleva vederci in presidenza. Ma perché? Ma non voleva vederci durante le ore di lezione, è stata chiara. Io non posso perdere tutta la sera, però. Viene anche Gianni? Chi? Gianni? Ma figurati, è a Firenze Gianni, ha un convegno e non risponde neanche al cellulare. Se ha un convegno. Potrebbe richiamare, però. Potrei avere bisogno di lui a mio lavoro, no? Ma perché? Non ce la fai più da sola? Sì, lo sai. Comunque con lui non ho scelta. Chi ti ha chiamato? Ma lei, la preside. Mi ha chiamato un'ora fa chiedendomi di passare assolutamente. Anche a noi. Se lei ha combinato qualcosa io lo strangolo. Continui ad andarci. Beh, sì. Io non ci metto più piede da ottobre, ormai non muovo più neanche un muscolo. Non si direbbe, ti trovo in forma. Dici? Io mi sento come una rana in una pozzanghera morta. Beh, allora forse un po' di moto ti farebbe bene, no? Ma quando me ne vado? Quando? Ormai non c'è più neanche un sabato in cui non lavori. L'altra sera siamo andati a cena da Sergio e Paola. Ah, sì? Io ho una vita che non li vedo. Beh, da quando si sono trasferiti a Milano li vediamo anche noi. Ma scusami, ma poi lei ha risolto quel guaio della visione. Ma lo sai anche tu? Maria Laura, ma sono passati da me in studio per il primo parere, dopo la lite con i fratelli, per quella storia della casa. Sì, ma non ne ho idea. Però è una cosa di cui parlo tanto volentieri. Sergio si è passato al caso. Beh, sì. E chi lo muove da lì? Sono belli. Che cosa? Cosa? I palloni, gli attrezzi, è tutto vecchio qui. Io credo che sia per questo che ci ha fatto venire, Ah sì? Per i palloni? No. E che lei, la preside, me lo disse qualche tempo fa, che non era più possibile andare avanti così, che anche gli ostacoli, quelli della corsa, erano arrugginiti, che i ragazzi rischiavano di farsi male. Ah, ma quali ne sono? E perché da noi? Ma non da noi, lei si domandava se il circolo del tennis poteva passare qualcosa alla scuola, magari gli attrezzi che non usano più. E che c'entro io? Sei nel consiglio direttivo. Come fa a saperlo? Ma forse mi è scappato. Ma scusa, è la fortuna di poter dare una mano a scuola di tuo figlio. Ma sai che rottura di palle? Ah, sempre pronto a dei piatti, vero? Non cominciamo, per favore. Che mai non c'è la aiuta? Ma perché non se la cavano da soli? Io per il mio studio non vado mica in giro a chiedere aiuto. Ma che bisogno ne hai? È uno degli studi più importanti della città, il tuo. E che c'entra? Secondo te me l'ha regalato qualcuno? Tu lo sai ieri a che ora io sono tornato a casa, Maria Laura? Io sono tornato a casa a luna di notte. Io ho dei collaboratori che si lamentano. Se devono fare mezz'ora di straordinario in più e non possono tornare a casa a cena con i figli. E io? Tu sai qual è l'ultima volta che ho fatto un pasto completo con Claudio? A Natale! Questo. Hai due occhiaie. Ah, sì? E che faccio io, è piccolo? Sì, ma quello che sempre fatto, dovresti essere allenato, no? E non è più così divertente. No. Non puoi lavorare basta perché finirai per scoppiare. E magari potessi scegliere. Però vedi, uno studio è come una macchina in corsa. E aspetta, e tu da una macchina in corsa non puoi più scegliere. Ma la macchina è partita. Scusate. Io sono Paolo Berzoni e mio figlio... E in classe con Leo, mio figlio? Ma come si chiama suo figlio, scusi? Gabriele. Ah, Gabriele. Sì, ci abita soltanto al tuo. Sì, infatti. Buonasera. Io sono il papà di Tonio. Ma allora sono i vostri figli, quelli qua fuori? Sì, sì, sì. Una volta l'ho accompagnato Gabriele. Ah, non mi ricordo, ma la ringrazio. Il mese scorso, quando sono tornati dal saggio. Al saggio di chitarra? Sì, sono stati bravissimi. È un peccato che se li sia persi. Sì, sì, l'hanno detto. Sì. Io non potevo perché ero al lavoro, ma davvero hanno suonato per un'ora intera. Sì, sono stati fantastici. Cioè, mi dissero a scuola lo stesso impegno che ci mettono quando fanno qualcosa fuori da qui. Naturalmente mi sto riferendo a Leo, mio figlio. No, anche Gabriele ormai parla solo di basket. Ma del resto è giusto, no? È giusto che si appassionino a quello che gli piace davvero. Sì. convocati dalla preside. Sì, sì, mi ha telefonato per dirmi che tardava un po'. Vabbè, che sarà poi? Che cosa? No, dico il motivo per cui ci hanno chiamato. Io non ne ho idea, vorrei soltanto che ci muovessero. Sì. Certo non è normale, eh. Cosa? No, dico che ci chiamino così all'ultimo momento. Sa cos'è? Secondo me per loro gli orari non esistono. Sì, certo. Cos'è? La solleria di Leo, mio figlio. Ormai usano le canzoni, sa? Ma non dei pezzettini, no, la canzone tutta intera. E aspettano per rispondere, per riascoltarla, è roba da matti. Ah, si è deciso a rispondere. Vabbè, ascolta un po' di musica, che male c'è. No, guarda che fa sempre la cosa sbagliata nel momento sbagliato. Lo sai che l'altro giorno che cosa ha fatto a scuola? Lo sai che cosa... come fa? Non lo sa, no, no. Si è tinto i jeans di rosso. Ah sì, come ha fatto? Ma non oso immaginarlo. Sono al policlinico, chirurgia. Chirurgia? Ma mio cugino in chirurgia? Mariani! Ah, Mariani? Come no, certo, lo conosco. È nel reparto accanto a lui. Lì da un sacco di anni. Sono tutti lì da un sacco di anni. Pare che da questa città non si trasferisse più nessuno. Ah, ma perché? Tu ti sei trasferito? Ma che c'è? Lo studio è mio, sperare mica loro. Ma veramente noi ci siamo appena trasferiti. certo. Anche lei si usa il tennis. Prego? No, dico il tennis. Tennis club. Mm-hmm. Il tennis. Ah, no, perché siamo qui solo da un anno e allora non conosco ancora bene. Ma perché me lo chiede, scusi? Ma guardi, la signora qui ha un'idea tutta particolare perché la preside ci abbia convocato. Ah, bene. Dunque? Attrezzi nuovi. Attrezzi nuovi? No, guardi, io ho solo detto che la preside qualche tempo fa si è lamentata del fatto che non c'erano fondi per comprare neppure un pallone e sperava che qualche circolo sportivo, per esempio il tennis club, potesse aiutarla. Potrebbe chiederci una mano così per intervenire. Ah, ma allora è per questo motivo che ci ha fatto venire qui nella palestra? Ah no, ci ha fatto venire qui in palestra perché la palestra è un edificio separato dal resto della scuola. Lei non voleva che qualcuno ci vedesse per discrezione. Ma se è questo quello che vuole, io cosa c'entro? Scusate. Io non c'entro proprio niente con il tennis. Ma scusi, ma lei è rappresentante. Di cosa? Ma come di cosa? Della classe. Ah, ma allora dice che è per questo motivo che mi ha fatto venire qui. È una donna scrupolosa, di quelle che se la prendono quando le cose non funzionano, eh. Ma come la conosci tu? Ah, stesso liceo. Noi abbiamo fatto lo stesso liceo. Non lo so, perché... No, non se ne ha mai parlato di questa palestra. Io non ci sono nemmeno mai stato qui. Io sì. Ah sì? A una partita dei ragazzi. Ragazzi, me ne frega un cazzo di questo. Vabbè, ho frequentato questo liceo. Ah. E in questa palestra ci ho passato un sacco di tempo perché giocavo a pallavolo, tutto qui. Ehi, si chiama Gianni. Gianni, mio marito. Ma com'era? Scusi. Prego. No, dico com'era, in che stato era questa palestra allora? Così. Le pareti erano dipinte di giallo. Ah, mi ricordo che in quest'altro qui, adesso mi pare che ci siano gli sfogliatori. Sì, c'erano i ciclostili. E ci voleva un'ora per stampare un volantino. Ma era più nuova. Sai che non ricordo. Ma sì. Beh sì, c'è ruggine dappertutto. Sì, ma non solo il tetto, anche gli attrezzi. Ecco, ad esempio, queste vetrate, io non credo che siano antisfondamento, è pericoloso, sa? Certo è assurdo. Che cosa? No, che ci sia una situazione così, che noi accettiamo che i nostri figli ci giochino in un posto così, ci corrano. Lo sa che delle vetrate così non sarebbero mai ammesse in un'azienda privata o nel suo circolo del tennis, li farebbero chiudere in una settimana. Ma quindi è giusto che gli diamo una mano? Sì, è giusto, sì, ma perché noi? Perché noi, come dire, la possibilità economica di aiutarla ce l'abbiamo. Allora speriamo che non esageri, che non si sia messa in testa di rifare tutta la scuola con i nostri soldi. No, sentite, no. Non aveva senso farmi venire qui per parlare di finanziamenti, perché io non conosco ancora nessuno in città. Deve essere successo qualcosa in classe. No, Leo mi ha detto che non è successo niente. Non è successo niente. Anche Gabriele gliel'ho chiesto in macchina mentre venivamo qua. Ma se hai combinato qualcosa io non strano. È l'orario ad essere strano. Io pensavo che la scuola a quest'ora fosse chiusa. È chiusa, ma... Silvia Prezzi ha lasciato il portoncino del cortile aperto per noi. Ma dov'è? E me l'ha detto che avrebbe tardato. Starà arrivando. No. Ma com'è? Chi? L'ha presa. Ma guarda, io dopo il liceo l'ho completamente persa di vista. So che ha vissuto un anno all'estero dopo l'università. È lì che è nata sua figlia. Poi è tornata senza un marito, un fidanzato. Li avrà fatti scappare, non so. Comunque, i ragazzi li ascoltano. Se poi magari la fa partire una sospensione perché è capitato l'anno scorso. Nell'altra sezione però non nella nostra. Comunque i ragazzi li ascolta tutto. Sì, sì, ma io l'ho conosciuta. A scuola? No, veramente in ospedale. Insomma, prima di Natale è venuta per un piccolo intervento. È venuta nel mio reparto e allora l'ho operata io. Ma mi è sembrata una persona per bene, tutto sommato, no? Ma dovrebbe esserci ormai, o no? Va bene. Io me ne vado. No, ma non può. Perché non può? Ma dai, posso. Aspetta! E lei? No, mio marito. Ma gli hai detto che siamo qui? No, non sappiamo ancora cosa sia successo. Ma lo sai che lui è ossessionato dalla scuola, dai voti? Di suo figlio non sa niente, per lui potrebbe spacciare durante il giorno. Ma se riceve un'insufficienza allora è un dramma. Ma scusa, vuoi non dire che erano con... Va bene. E che lui si fissa e comincia a dare punizioni a caso. Ma come a caso? A caso! La sera Leo fa qualcosa che non gli piace e lui gli toglie lo scooter. E a me tocca scorazzarlo in macchina per una settimana. Ma non ha senso. Prova a spiegarglielo. Ma così punisce te, non punisce mica lui. Sì, ma quel tavolo di scooter è la prima cosa che gli viene in mente a quei padri. Anche tu l'hai toccato Claudio una volta. No, non mi ricordo. Me lo ricordo io. Ma non ho niente di ricordare. Vabbè, del resto non ho niente di quanto la pena ricordare. Ma sono sciocchezze. Con Gianni non avete tempo. Delle sciocchezze deve occuparsi qualcun altro. Ma di che diavolo stai parlando e basta? Mi fa venire il mal di testa. Lascia stare. E Gabriele? Gabriele ce l'ha lo scooter? No, non ce l'ha. A 14 anni, meglio aspettare. È triste. Come si fa a mettere una musica così per una sonetta? Ma è Laura, è una canzone. No, dai, è una musica che mette l'angoscia. Ma io non credo che ci siano musiche che mettono l'angoscia, che è il silenzio che... Ad esempio, musica in ospedale non ce n'è. E perché non la mettete? Perché? Ma se lo immagino, quel paziente che odia il jazz, l'altro che vuole la Pausini, non funziona, no. C'è in sala operatoria, c'è per gli interventi lunghi, ma anche lì perché c'è perché l'ho chiesta io, perché mi aiuta a concentrarmi, cioè a mantenere la concentrazione. Io in studio l'ho messa. Ah sì? Ah sì, ma perché non dovrebbe esserci nello studio di un commercialista? Ah beh, certo. No, anche perché poi c'è un motivo in realtà, perché la gente quando aspetta e ascolta la musica è molto più tranquilla. Sì, ma la musica è importante, eh. Io l'ho detto sempre a Leo che non deve lasciare chitarra. E perché? Ma perché la musica ti apre delle possibilità. Tutti i ragazzini vanno a musica, tutti i ragazzini smettono prima o poi. Ma qualcosa rimane, eh? Dice. Si mantiene la memoria perfino di quello che si è ascoltato prima di nascere. Me l'hanno raccontato anche a me, solo che io non sono riuscita a capire, dottore. Come i bambini facciano a sentire? Sentono. sentono con l'orecchio interno. E attraverso le vibrazioni che del loro sistema osseo, perché il suono passa alle pareti addominali e il liquido amniotico e arriva. Sì, certo, pare che sia un suono molto ovattato, simile a quello che magari noi sentiamo quando siamo sott'acqua, ma con un ritmo molto scandito perché il cuore della madre risuona, no? risuona dappertutto come un tamburo. Ma come fanno a saperlo? L'hanno studiato. Che hanno posizionato dei microfoni accanto alla testa del feto. Ma da dentro? Da dentro? Cioè, gli hanno ficcato il microfono dentro? Sì, ma sono minuscoli apparecchi attraverso la cervice materna, assolutamente indolore. Tra l'altro è servito a scoprire moltissime cose sulla sensorialità, del feto. Va bene, io me ne vado per davvero. Ma non può! Allora è finito! Ma te l'ho detto che avrebbe tardato! Qualche minuto, Maria Laura, non un'ora! Ha qualcosa per il mal di testa? No. Cioè, no, ho questo, ma non è specifico per l'emicrania. No, no, è certo. A che cosa servono i medici, no? Ma guarda, mi scusi, ma quando mi prende l'emicrania, ero qui sulle tempie, io... Sdragione. Sì, sì, oltre a Gabriele abbiamo due gemelli di 4 anni. Io ho una figlia di 2 anni più grande di te. Però, eh? E com'è avere figli più grandi? Ma guardi, non è male, perché il tempo si espande. Io non lavoro perché dopo 16 anni passati a fare la pista per i figli, il tempo si espande di colpo, di certo. Pensi, che l'altro giorno alle 3 del pomeriggio io sono andata in piscina. Cioè, le giornate sono sempre piene, non è che... Ma di colpo si ha un po' più di tempo. Ed è molto... Scusate il ritardo, mia figlia ha avuto la febbre alta, ho dovuto portarla da medico, ma fuori per appuntamenti. Professore. Buonasera, presidente. Lara Cabelli. È molto lieto. E ciao! Ma cos'ha? Ma non lo so, stamattina aveva mal di gola, l'ho tenuta a casa. A casa da sola? Ma sì, a 12 anni, non c'è problema, vorrei solo che la febbre scendesse. Mi rendo conto che è un posto insolito per un appuntamento, ma... Preferivo non incontrarmi negli uffici della presidenza, io preferivo che non ci fosse nessuno intorno. Ma se per questo, preside, non c'è nessuno in tutta la scuola. Già, è tardi, le segretarie se ne devono essere andate. Ma non c'è un custode? Non più, troppo caro. Ma quindi di notte non ci resta nessuno? Ah no, non c'è un granché da rubare del resto. Cos'è questo rumore? Sono i nostri ragazzi che giocano in cortile. Li avete portati? Non mi avevi detto di non farli venire? Io vi avevo detto chiaramente che vi volevo vedere da soli. Ah, ma quando tu mi hai chiamato ero in macchina con me. Eh sì, anche mio figlio. E va bene, comunque sono fuori, non ci sei. Dai, sediamoci. Prego, diamo la mano. Aspetta. Sì. Così. Malconcia questa palestra. Sì, avrebbe bisogno di una sistemata. Ecco, avrebbe bisogno di attrezzi nuovi. Sì, sì, nuovi. Anche di quello, sì. Forse una ritinteggiatura alle pareti. Già, ma noi non siamo qui per parlare di questo. Si tratta... È per qualcosa che è successo questa mattina. Ma è una cosa che riguarda la classe. Com'è? Perché io sono il rappresentante dei genitori e allora ho pensato... C'entra la classe, sì. Vabbè, speriamo non sia niente di grave. Mamma mia, si muore di caldo qui dentro. Come diavolo hanno le crosti in piastre? Aspetti, forse deve essere la rotellina. Credo che sia verso destra. Così forse? Non lo so, provi. Forse ci deve essere un timer. No, no, non si riesce a regolare niente in questa scuola. Rostiamo tutto il giorno. Mi scusi, prego. È successo questa mattina. Una ragazza della classe Vabbè, a questo punto tenere il nome riservato non ha alcun senso. È Katia Spagnoli. Ah, la ragazza di Gorrano! Sì, viene da Gorrano. Anzi, da una frazione. Deve andarci col bus fino a Gorrano, poi di lì prendere il treno. Ci mette più di un'ora ad arrivare a scuola. È successo metà mattina. Sono andata a fumare sulle scale, quelle d'incendio, e l'ho trovata lì, da sola, sotto il sole. Aveva le mani che non smettevano di sudare, credevo le venisse un colpo. L'ho portata al bar, fuori, per farle bere qualcosa. Per più di un'ora non mi ha quasi parlato, fissava il bicchiere e continuava a ripetere mi scusi se non ero in classe. E basta. Ripeteva solo quello. Che non era successo niente, che non aveva niente da dire, che tutto andava bene, che aveva solo sete. E basta. Non sono riuscita a strapparle altro, l'ho riaccompagnata in classe. Non si muove sto coso, ma non può far così caldo! E sapete dove l'ho trovata un'ora dopo? Sulle stesse scale, seduta lì in maglietta, sullo stesso gradino. Al momento ho pensato, Dio, come si fa a essere così infantili? Ho pensato che si fosse messa lì apposta per farsi vedere. E invece, credo che pensasse tutto il contrario, che quello era il posto più sicuro. Non lo si vede quel posto, è quasi nascosto. Per arrivarci bisogna passare per un corridoio dove non ci sono le aule. Comunque, le ho detto di seguirmi in presidenza. Ho fatto bere dell'altra acqua, l'ho lasciata lì sdraiata sul divano. Ci sono volute più di 2 ore perché si decidesse a parlare. Katia Spagnoli è stata aggredita da alcuni ragazzi. È stata trascinata, spinta, trattenuta con una violenza tale da provocarle dei lividi sulle braccia che sono ancora evidenti. Li ho visti. È stata violentata. Qui. In questa palestra. L'hanno presa là. L'hanno afferrata vicino a quella porta. 10 giorni fa, questo è quello che lei mi ha detto. Hanno aspettato che tutti i ragazzi alla fine dell'ora di ginnastica se ne fossero andati. Hanno aspettato che lei uscisse per ultima dagli spogliatoi e l'hanno presa. All'inizio ha pensato ad uno scherzo perché ridevano. La spingevano e ridevano. Poi si sono messi a strattonarla e quando lei ha provato a urlare l'hanno imbavagliata con la sua sciarpa, l'hanno trascinata fino a quel materasso e alla fine ce l'hanno buttata sopra. L'hanno presa tutti. A turno. Io non avevo idea. Nessuno poteva avere. Non può essere. Ma quando? Quando è successo? Questo non sono riuscita a capirlo con precisione, non c'è stato verso. Un paio di settimane fa, questo sì, ma il giorno esatto non riesce a tornarle in testa in nessun modo. Era un giorno in cui avevano ginnastica, forse era il martedì, dovrebbe essere il martedì, ma è successo di nuovo. Un'altra volta? Ieri, dopo che è suonata la campanella, quella dell'intervallo, devono averla seguita e l'hanno presa, l'hanno trascinata dal cortile fino qui dentro. Mi ha detto che è durato meno. Come se ognuno di loro già sapesse cosa fare. Mi ha detto che le ha fatto meno male. È mostruoso. Sì, è mostruoso. Senta, ma l'ha chiamata la polizia? Ancora no. Scusi, ma com'è possibile che nessuno abbia sentito niente? Questa è un'ala isolata, quando non ci sono lezioni di ginnastica, qui non ci viene nessuno. Ma era mattina. Sì, ma entrambe le volte è successo in un'ora in cui la palestra era vuota, durante l'intervallo e quando non ci sarebbe stata l'ora di ginnastica subito dopo. E come lo sapeva? C'è l'orario, qui, penso qui. Chiunque poteva saperlo, sapevano che nessuno li avrebbe disturbati. Comunque, quello che io... Scusi, ma qui ci sono delle finestre enormi, ma è possibile che nessuno abbia visto niente? Ma durante l'intervallo i ragazzi non sono in cortile, stanno nei corridoi, gli insegnanti sono in sala professori. Ma questa ragazza sarà tornata in aula dopo, ma è possibile che nessuno si sia accorto di niente? Ma appunto! Non lo so, era terrorizzata, non poteva parlare. Ma allora bisogna aiutarla, forse uno psicologo, no, qualcuno che le dia una mano. Sì, certo, forse anche un medico. Sì, ci sono dei centri specializzati per questi casi e bisogna far presto. Mi ha detto che sono stati i vostri figli. Le ho chiesto se era sicura. Le ho chiesto se aveva bisogno di pensarci ancora per essere sicura. Mi ha detto che non poteva sbagliarsi su una cosa così. A questo punto io devo chiamare la polizia. Mio figlio ha 14 anni. Anche Katia ha 14 anni. Ma sono bambini. Io devo chiamare la polizia. Ma quando? Beh, questa sera volevo avvisarvi, insomma, io volevo parlartene. Ma ha fatto i nomi? Sì, ha fatto i nomi dei vostri figli. Sì, ma questa ragazza è sicura che i nomi siano giusti? Cioè che siano proprio quelli che lei ha visto? Sono nella sua classe. No, mio figlio non può essere. Mi dispiace. No, guarda, se una cosa così fosse successa io me ne sarei accorta subito. Ma non devi convincere. Ma guarda che ieri stavamo guardando la televisione, mio figlio ne fa di sbagli, ma è un libro aperto, lui non riesce a nascondere niente. Ma i ragazzi a volte riescono a camuffare. Ma non riesce a camuffare perché è un bambino. Ma io devo chiamare la polizia. Ma sulla base di quali fatti tu puoi fare una denuncia? Ma non lo capisci? Ma veramente mi puoi dire che non lo capisci? Io vi ho chiamato per un riguardo verso di voi, verso di te. Sì, ma certamente, e cerchiamo di stare calmi, eh? Proviamo a ragionare. Sì, infatti, stiamo calmi. Allora, ripartiamo dall'inizio. Giusto, allora, giusto, ripartiamo dall'inizio. Questa ragazza è quella della festa, vero? È quella della festa? Ma quale festa? Dai, dimmelo tu. Non è rilevante. Di cosa state parlando? Katia a ottobre, è finita al pronto soccorso perché è una festa con quelli di quarta, ha bevuto e ha preso qualcosa. Credo che abbia fumato. Fumato? Era talmente impasticcata che le hanno dovuto fare la lavanda gastrica. Pare che a quella festa sia andata a letto insieme a due ragazzi. Ma è vero? Non lo so. Che sia finita al pronto soccorso, questo è un fatto noto. È uscito sul giornale e non sono riuscita a evitarlo. Il ricovero è un fatto certo. Il resto sono solo fantasie. Comunque non mi interessa. No, invece credo che dovrebbero interessare. A me interessa quello che mi ha raccontato Katia questa mattina. Io ho ritenuto di fare più del mio dovere informarvi. Io credo che voi non dobbiate affrontare una situazione del genere da soli. Che cosa vuol dire? Io credo che dovreste chiedere il supporto di qualcuno anche voi. Non è di questo che abbiamo bisogno! Io vi ho usato un riguardo, chiamando. Io pensavo di avervi aiutato. Aiutato? Sì, sì, aiutato. Io sono convinta che anche voi genitori abbiate bisogno di rivolgervi a qualcuno, di farvi aiutare per gestire una cosa così. Ah sì, ma se chiami la polizia sarà la polizia a gestirla. C'è il riguardo. E se non ci fossimo conosciute, che cosa facevi? Gli sparavi? Non mi domando come potete essere così. No, no, no. No, è stato un sbaglio, un dolore. No, preside, con calma, preside, con calma. Allora, questa ragazza è sicura. Quando si subisce un trauma, uno poi finisce per ricostruire le cose un po' come vuole. Me l'ho detto, poi, non ha dubbio. Ho capito che me l'ha detto. Il suo racconto era dettagliato, era preciso. Benissimo. Si ricorda dov'era ognuno dei tre in ogni istante. Si ricorda che si passavano il telefonino. Ma quel telefonino? Per filmare. Ogni volta uno dei due che la teneva ferma, filmava la scena con la mano libera. Continuavano a passarsela, a riprendere, spostandolo di qua e di là come se avessero paura di perdersi qualcosa. Scusi, ma lei questo libro l'ha visto? No. E allora di che diavolo stiamo parlando? È ancora tutto da dimostrare quello che è successo qui dentro. Sì, noi sappiamo solo quello che ha detto questa ragazza. Ma a 14 anni è possibile che abbia fatto... A 14 anni è possibile che le cose non le risolva la polizia. Ma io ho l'obbligo di riferire. Ma sono d'accordo, preside, ma non per forza i poliziotti o i magistrati. Anche perché per fare questo c'è sempre tempo. Prima, intendo dire, bisogna appurare che quanto è successo veramente, altrimenti solleviamo un polverone su niente. Ma certo, voglio dire, ci vuole qualcuno che li sappia ascoltare, qualcuno che sappia valutare la confessione di questa ragazza, capire quanto possa essere attendibile. Magari ha solo bisogno di riconsiderare le cose con un po' più di calma. Poi preside, i ragazzi, bisogna sapere come interrogarli. Queste cose non le fa la polizia, anche perché peraltro lo dice la stessa legge, non essendo imputabile. Che vuol dire? Che non sono capaci, che non sono pienamente... No, i ragazzi a 14 anni sono imputati. Ma io non voglio entrare in queste cose, io non so come vorranno procedere, io li devo chiamare. Scusatemi, mia figlia. Sì, mia figlia. Scusate, torno subito. Pronto? Tesoro, come va? Telefonino di Claudio. Ma che cosa vuole fare? Ma senti che quella, filmavo. Ma lo vuole controllare? Senti, la voglia mio! Scusate, era mia figlia, la febbre non scende, ho dovuto chiamare il medico. Quando torno a casa devo passare da lui per gli antibiotici. È successo qualcosa? Mentre io non c'ero, ritengo. No! Ti stavamo aspettando. Scusatemi, ho fatto più in fretta che potevo. Non è che avete parlato con i ragazzi? Sei pazza! Forse... Io credo che è a questa ragazza che noi dovremmo cercare in qualche modo di parlare. Perché i ragazzi a volte sono così confusi che... Ora, io non voglio dire che lei abbia mentito, è solo che... È solo che se una si impasticca tanto da perdere i sensi, si può anche confondere. Questa mattina, quando mi raccontava, era lucidissima. Perché non ha urlato? Prego? Se l'hanno aggredita, perché non ha urlato? Ma se l'hanno imbavagliata... La prima volta, presidente, non la seconda. La seconda volta le ha detto che tutti sapevano già cosa fare, in quel frangente, perché non ha urlato? Ma io non lo so! Se una ragazza viene aggredita e non urla, che significa? Che ci sta! Tu non puoi dire una cosa così! È arrivato il momento di dire le cose come stanno! Senta, lei ci ha convocato per un racconto confuso, fatto da una ragazza malata, che si porta a letto a mezza scuola e che si fa come una pigna! Io vi ho convocato perché un'allieva del mio istituto mi ha detto che i vostri tre figli l'hanno violentata! Ma non può condannarli già! Ma io vi ho detto solo quello che ho sentito! Ma lei ha sentito il racconto di una ragazza malata, presto! Ma un cazzo di niente! No, è vero, mi scusi, questo però è vero, voglio dire, non può dire di avere molti elementi, non ci ha saputo dire nemmeno la data, il giorno in cui è successo. Ma vi rendete conto che l'hanno fatto una seconda volta? Allo stesso modo, come se fosse un'abitudine! Ma lei si sente quando parla, ne sente le stronzate che dice? Secondo lei tre ragazzi di 14 anni, 14, violentano una coetanea e poi tornano in classe a fare compiti come se non fosse successo niente? Io non voglio dire... No, beh, presidente, mi scusi, però è vero, ha ragione, voglio dire, questa ragazza sarà tornata in aula prima o poi. Benissimo, allora che cosa ha fatto? È entrata in aula, si è scusata per il ritardo, si è seduta al suo banco, poi magari il suo banco è accanto a loro, ha aperto un libro, nessuno si è accorto di... A me non sembra che abbia... Ma io non lo so come è andata! E là c'è il convocato! Io ti ho fatto venire qua perché mi sembrava corretto dirti queste cose prima di raccontarle alla polizia! No, ma andiamoci piano con la polizia! Andiamoci piano, perché i poliziotti hanno altro da fare che ascoltare delle fantasie malate! Non sono io ad essere malata! Ma questo che cavolo vuol dire? Chiedetevi del rapporto che avete con i vostri figli! Ma smettila! Tu la devi smettere di fare la psicologa che entra nella testa della gente! Non sai quello che dici! No, presidente, io credo che la situazione sia un po' più complicata di come la mette giù lei, eh? La situazione è complicata, ma quello che c'è da fare è semplice! Io devo denunciare quello che è successo! Denunciare! Se dire solo quello, denunciare! Io in questa scuola sono un pubblico ufficiale! No, lei prima di tutto è un'educatrice! Appunto, sono un'educatrice! Allora. Ma questo è il modo di educare! Ma che cazzo l'ha fatto passare un concorso da preside, dico io! Non credo che ci sia più nient'altro! Ma questo è un momento! Presidente, un momento! Allora, quello che noi stiamo cercando di fare è solo di farla ragionare. Ora, per lei è un momento difficile, questo lo capiamo benissimo, però io credo che si debba appurare prima di chiamare la polizia. Davvero? Adesso vi chiedo di andarvene. No, però si calmi. Presidente. Io sono calmo. È una persona pericolosa. Io penso che qualcuno la debba fermare. No. Mi sta minacciando. Esattamente, la sto minacciando. Vedrà che se le chiama la polizia, vedrà che anche noi avremo qualcuno da chiamare. Ma Cristo, ma non ci metta a spiegare le cose anche lei. Allora, per lei una confidenza del genere deve essere stata certamente un trauma e di questo noi ce ne rendiamo conto. Io vi ho riportato quello che ho sentito. Cioè, cazzate! Io vi ho riportato quello che ho sentito, parola per parola. Magari non fosse vero. Sono cazzate! Ti sei mai chiesto che queste cazzate siano vere? Se per caso la ragazza non si sia inventata tutto. No, perché tu ti sei intossicata con quello che la ragazza ti ha detto. Tu ne sei ossessionata. Tu sei una paranoica! Siete voi che dovete cominciare a farvi qualche domanda. Con chi ne ha parlato? Di cosa? Come di cosa? Di questa storia! Ma con nessuno, vi ho chiamati subito! Mi ha fatto bene! Io lo capisco quanto siate sconvolti! Io volevo urlare quando l'ho scoperto! non è una cosa che si possa affrontare da soli. Io non accuso nessuno di niente, ma ricopro un ruolo pubblico. Un allievo ha dichiarato che nel mio istituto è stato commesso un reato, più reati. Io ho il dovere di chiamare la polizia. A chi? A chi l'ha dichiarato? Ma come a chi? Cate, parlate solo con me. Ma con nessun altro? Con nessuno, ve l'ho detto, era terrorizzata. L'hanno minacciata. Non ha parlato con le compagne, non ha parlato a casa, la madre non sa ancora niente, la cerco da stamattina. Io sono una sola a saperlo. Adesso io ora vi cedo di andare. Mi sembrava corretto dirvi queste cose, insomma, siete persone che conosco, ma io adesso devo fare questa telefonata. Mi hai già pensato a Katia? Cosa intende di me? Ma cosa vuol dire finire sulla bocca di tutti, sui giornali? Perché cazzo ci saranno i giornali? Ma cosa vuol dire passare alla storia come la ragazza dello stupro, preside, a 14 anni? Lei non si rende conto di quello che dice? Preside, mi ascolti, ascolti un secondo in silenzio, la prego! Anche se ci fosse qualcosa di vero in questa vicenda, facendo così lei sputterà tutti e basta! Ma lo capisce? Voi siete due pazzi. Cosa volete fare? Questa non è una cosa che si possa nascondere. Bisogna uscirne però. Ma come? Non lo so. Io non lo so. Se ci avesse puntato contro una pistola, noi ci siamo difesi. Cosa? Cosa? Legittima il procedimento ci sarà lo stesso. Il procedimento basterà a massacrarmi per tutta la vita. Sì, ma non ci hanno più. Non c'è bisogno che gli parliamo della ragazza. Ma devo far venire qui la polizia e raccontargli le cose. No, io non ho detto. Mi ascolti, lei è stato convocato d'urgenza in un istituto pubblico. Di nascosto da tutti, questo lo dovrà spiegare. Sì, ma non occorre che non mi... Ma ne farò un interrogatorio. Va bene. Non c'è niente da fare, andiamo a Londra! Via, veloci! Ragazzi!